So what we shall do this morning is first myself and Sadhna Hannes will say just a few things about further practice. Then we have a short question and answer session, and then there will be time to express one's gratitude. Quello che vogliamo fare io e Hannes questa mattina è dire alcune cose ulteriori sulla pratica, e poi ci sarà un po' di tempo per domande e risposte e per esprimere la gratitudine. No. Most recently we've spoken about the five limbs of striving, and these five limbs of striving are meant not only for your intensive retreat practice, but also for your practice at home and for integrating mindfulness into your daily life. Recentemente abbiamo parlato delle cinque parti dello sforzo, e questo discorso, il contenuto di questo discorso è valido non solo per la pratica qui intensiva, ma anche per la continuità della pratica di consapevolezza nella vita quotidiana. And just to restate, those five limbs of striving are faith and then good health, honesty and sincerity. E per ricordare un attimo, questi cinque parti sono la fede, la buona salute, l'onestà e la sincerità. Ardent effort. Lo sforzo ardente. And then wisdom. E la saggezza. Now, as far as I can see, in this group of meditators, there's not a single new meditator, and so this means in the future, kindly, for those who've so far only done shorter retreats of 1 week, do consider going longer, extending your next retreat to maybe 10 days or even 20 days. E da quel che mi risulta, in questo gruppo non ci sono delle persone principianti nella pratica, quindi il primo consiglio è quello di tornare la prossima volta e estendere il vostro ritiro da forse da una settimana a 10 o forse 20 giorni anche. And those who are already doing 10-day or 20-day retreats should start thinking about doing more than this, let's say a month or even 2 months. Quelli che hanno già fatto 10 o 20 giorni di ritiro, il consiglio è quello di estendere il ritiro da un mese anche a 2 mesi. And those who are already in the habit of doing 1 month retreats should start considering doing a longer retreat of maybe 2 or 3 months. E quindi potrebbero prendere in considerazione di fare un ritiro di 2 o di 3 mesi. So, the Buddha says that the five limbs of striving eventually lead to the destruction of the taints, but this is possible only when you meditate for more than just 7 days. Il Buddha ha detto che questi cinque parti dello sforzo portano alla distruzione degli inquinanti, dei legami, però questo si può ottenere meditando più di 7 giorni. And do know that in each and every one of you is the potential for enlightenment. It is within your reach. It is not something that is impossible. E sappiate che in ognuno di voi c'è il potenziale dell'illuminazione, ed è a portata di tutti, non è una cosa impossibile. And so it's a matter of arranging one's life in such a way that a longer retreat becomes possible. È solo la questione di organizzarsi perché un ritiro lungo diventi possibile. And as explained already during one of the earlier Dhamma talks, while we are traveling on this path of mindfulness practice, then we're bound to benefit from the practice in many different ways. Come già detto, mentre siamo su questo percorso, possiamo beneficiare di questa pratica in molti modi diversi. And so, over time our virtue will become purer and purer, our concentration will improve, our intuitive wisdom will deepen. Con l'andare del tempo la nostra virtù migliorerà sempre di più, la nostra concentrazione sarà sempre più profonda e la nostra saggezza intuitiva becomes deeper. Diventerà anche questa più profonda. And so, then in terms of our faith, the initial and still weak faith gradually becomes stronger and stronger, and then our mindfulness and perception will become sharper and quicker. In termini di fede, anche la fede diventerà sempre più forte e anche la consapevolezza e la percezione diventeranno sempre più attivate e veloci. And so, then, as Sutna mentioned already yesterday, our effort has to be a type of effort where we try harder and harder. So it must be an effort that gradually increases. Niente, lo sforzo dovrà essere uno sforzo che diventa sempre più, si incrementa sempre di più, insomma, diventa sempre più. And so as we go on with our meditation practice over a longer period of time, so I'm saying several years, then our degree of equanimity will improve, and the more joy and happiness and peace and contentment will come into our lives. Continuando negli anni la pratica meditativa, la nostra equanimità crescerà sempre di più e anche la gioia e la felicità si evidenzieranno nella nostra pratica. And also qualities such as loving kindness, compassion, sympathetic joy, these are likely to be strengthened. E anche si rinforzeranno qualità come la gentilezza amorevole, la compassione e la gioia compartecipe. Now, our time as or during our human existence is limited. And at the most, maybe 106 years or 110, 14 years, but not much more than that. Our time as our human existence is limited. Maximum, the oldest people these days are 140, somewhere around 114. La nostra vita umana è limitata, ci sono dei casi appunto di persone che sono sopravvissute fino a 114 anni. And and most likely not everyone here in this room is going to get that old. Molto probabilmente nessuno in questa stanza arriverà a quell'età. And so the time that we have for meditation practice is clearly limited. Quindi il tempo che abbiamo per la pratica meditativa è chiaramente limitato. And so, we really need to make good use of our time and use it to deepen our Dhamma practice and to gain benefits from it. Quindi cerchiamo di utilizzare, di fare il buon uso di questo tempo e di approfondire di più la nostra pratica del Dhamma e di trarre i benefici, i maggiori benefici. And certainly, if already within one month we can, at least on a temporary basis, abandon a number of the unwholesome mental defilements, then in 2 months or 3 months this will be even more the case. Se in un mese riusciamo ad abbandonare molti degli inquinanti mentali, in 2 mesi il lavoro sarà ancora migliore. On a temporary basis. Sempre però su una base temporanea. And so then if we do gain the Dhamma, in other words, we gain path and fruition knowledge, then the benefits will be very profound. Se poi acquisiremo la conoscenza del sentire e la fruizione, questi benefici saranno ancora più profondi. And certainly then also keep in mind that we may pass away at any time. Ricordiamoci anche che potremmo morire in qualsiasi momento. At any time we might certainly fall sick. In ogni momento potremmo ammalarci. And at any time we might certainly encounter dangers and certain enemies. In ogni momento potremmo incontrare dei pericoli o dei nemici. And at any time we might certainly encounter disturbances. In ogni momento potremmo incontrare delle situazioni difficili. Yeah. Disturbanti. And so therefore now is the time to make the effort, not to postpone the practice until sometime in the future. Quindi il momento per fare questo sforzo è adesso, non dobbiamo posporre la pratica a qualche ipotetico tempo in futuro, insomma. And so, along the line that was mentioned earlier on, a reflection given by the Buddha is, my life is not lasting. E questa riflessione che è stata fatta dal Buddha su questo modello, insomma, è che appunto la mia vita is not lasting. It's not lasting, yeah. Sì, not lasting forever. Non durerà per sempre. And my death is sure to come. La mia morte arriverà per certo. And my life will end in death. E la mia vita di sicuro finirà con la morte. And my death is inevitable. La mia morte è inevitabile. And my life is uncertain. La mia vita è incerta. My death is certain. La morte è certa. Now, along the line of what we discussed yesterday, there is another sutta in the Anguttara Nikaya, volume 3, and it's discourse 54, which is entitled "Time's for Striving." C'è un altro sutta sulla linea di quello che abbiamo discusso ieri. Dell'Anguttara Nikaya numero 3, 45. Yes, right. Which is the title? Times for Striving. Che si intitola appunto questo è il momento per impegnarsi, per mettere l'impegno, insomma. So, there are these five right times for striving. What five? Ci sono questi cinque momenti per mettere questo sforzo, questo impegno, questo. Herein, a meditator is young, a mere youth, black-haired and blessed with the beauty of youth. Herein, at this time. Questo in questo momento un meditatore è is giovane. Young. And with black hair, con I capelli neri, and blessed with the beauty of youth. E benedetto dalla bellezza della gioventù. Yes, and this is the first right time for striving. Questo è il primo momento giusto per impegnarsi. Now, a meditator has health and well-being, a good digestion, which is neither over cold nor overheated. And this is the second right time for striving. Poi un meditatore ha buona salute, a good digestion, una buona digestione che non è troppo caldo, troppo fredda. Yes, and this is the second time of a right time for striving. E questo è il giusto secondo momento per l'impegno. There is no famine. No famine. Non c'è carestia. Crops are good, food is easy to get. I raccolti sono buoni ed è facile procurarsi del cibo. And it is easy to receive to receive food. Ed è facile ricevere il cibo. This is the third right time for striving. Questo è il terzo momento opportuno per l'impegno. Then human beings dwell in friendly fellowship together. Gli esseri umani dimorano in amicizia. Just like milk and water mingle. Così come il latte e l'acqua si mescolano. Yes, and so they do not quarrel. Non litigano. But look upon one another with friendly eyes. Ma si guardano con occhi benevoli. And this is the fourth right time for striving. E questo è il quarto momento giusto per impegnarsi. Again, when the community of meditators dwell in friendly fellowship together, finding comfort in one teaching. E ancora quando la comunità dei meditatori dimora, dwell in friendship, dimora con l'amicizia, insomma, in buona armonia. Yeah, right. When there's harmony, quando c'è armonia, then there is no reviling one another. No rivalità. Non c'è rivalità tra uno e l'altro. Or not talking badly about one another. Oppure non c'è un sparlare gli uni degli altri. Nor accusations are being made. No accusations being made. Non sono lanciate accuse. No quarreling. Non ci sono litigi. But meditators, those of little faith find faith, and those who already have faith gain more faith. Quelli che hanno poca fede trovano la fede o la fiducia, e quelli che hanno molta fede ne trovano ancora di più. And this is the fifth right time for striving. Questo è il quinto momento giusto per l'impegno. So these are the five right times for striving, and for the application of the five limbs of striving. Questi sono i cinque momenti giusti per lottare, per impegnarsi e per applicare queste cinque parti dello sforzo. And to end with a short Dhammapada verse, well known to most of you: the gift of Dhamma excels all gifts. Per terminare con un breve verso del Dhammapada che la maggior parte di voi forse conoscono, il dono del Dhamma è superiore a tutti gli altri doni. And the taste of the Dhamma excels all tastes. Il gusto del Dhamma è superiore a tutti gli altri gusti. And delight in the Dhamma excels all delights. La luce del Dhamma è superiore a tutte le luci. And the eradication of craving overcomes all ills. Il sradicare della brama, diciamo che supera tutte le malattie. Cioè all samsara and dukkha. Tutta la sofferenza del samsara. And let me conclude by wishing may the practice of the Dhamma lead you eventually to the destruction of the corruptions. E lasciatemi concludere dicendo che la pratica del Dhamma, augurando che la pratica del Dhamma possa condurvi allo sradicamento di tutte le corruzioni. Wow. and that's it. No, it's not a start. Just a few kind of more practical things. When leaving retreat, there is a completely different situation than when we are at home. Alcuni consigli pratici quando lasciamo il ritiro e quando siamo a casa, insomma, è una situazione completamente diversa dal ritiro. Maybe first I would like to read something which is from a book, which is a very interesting book called Mount Analog, which is, I think, from the 60s or 70s. Prima vorrei leggere qualche cosa che viene da un libro che si chiama Il Monte Analogo, che è del 1960 o 70. About the spiritual path. E questo riguarda il sentiero spirituale. You cannot stay on the summit forever. Non si può stare sulla sommità per sempre. You have to come down again. Bisogna scendere ancora. So why bother? E quindi perché preoccuparsene? It's just this. È così. What is above knows what is below. Quello che c'è sopra adesso è anche sotto. But what is below doesn't know what is above. Ma quello che è sotto non conosce quello che è sotto. One climbs and one sees. Uno si arrampica, sale e può vedere. One descends and one sees no longer. Quando uno scende dalla sommità non vede più. But one has seen. Però ha visto. There is an art of conducting oneself in the lower region. C'è una modalità, un'arte di gestire, condurre se stessi nelle regioni più basse. By the memory of what one saw higher up. E questo si basa sul ricordo di quello che si è visto quando si stava sulla sommità. When one no longer sees, one can at least still know. Quando uno non vede più questo, almeno però può lo conosce. The usual experience that people have is that when they go back to life and still are continuing with some more or less daily meditation practice. Di solito le persone quando tornano alla vita quotidiana continuano con una pratica più o meno costante nella vita quotidiana, sì. That the practice may not be so detailed or so such level like it is in intensive retreat. La pratica non sarà così dettagliata a livello della pratica che c'è nel ritiro intensivo. But still, it is extremely valuable. Ma comunque ha un valore estremamente alto comunque. Because we kind of keep connected with the practice. Perché mantiene questa connessione con il Dhamma, con la pratica. And what one also can learn is not to judge the sittings. E quello che si può imparare è di non giudicare la propria meditazione, insomma. There are few, but it's very few people who even can manage to practice something like 2 or 3 hours a day, but this is maybe just very very few. Ci sono alcune persone, ma di solito sono molte poche, che riescono a praticare anche 2 o 3 ore al giorno, tutti i giorni. And I have I know one person who does this, and where I can see that the practice is still developing. Even at home. Una persona che fa questo e la sua pratica si sta sviluppando anche a casa, insomma, nella pratica quotidiana. For many this is not realistic. Ma per la maggior parte non è realistico pensare che di poter fare but questa pratica di what tre ore. Is realistic is that we can see how we can bring qualities that we develop in intensive meditation, like mindfulness, for example, into all our actions and our daily life. Ma quello che è realistico è vedere come possiamo applicare qualità che abbiamo sviluppato nella pratica intensiva, come la consapevolezza, nella vita quotidiana. And this already starts usually on a retreat, where it is important that we do not just confine mindfulness on the cushion. E questo comincia già durante il ritiro, dove è molto importante non confinare questo sviluppo di questa qualità della consapevolezza quando siamo seduti sul cuscino, basta. So when you find yourself thinking in daily life of the next retreat, also try to see that still now in that moment there is a possibility to be present and mindful. Quando cominciamo a pensare nella vita quotidiana al prossimo ritiro, rendiamoci conto che in quello stesso momento possiamo comunque praticare la consapevolezza. People who have done a lot of walking meditation say that they easier are mindful in just the normal walking. Le persone che hanno fatto molta meditazione camminata dicono che facilmente riescono a essere consapevoli anche nel normale camminare della vita quotidiana. We also can be mindful when we do things quickly. It may not be that detailed, but still can be present. Possiamo anche essere consapevoli mentre facciamo le cose velocemente, e magari non seguendo tutti i dettagli, però possiamo essere presenti. We still can have mindfulness also of dominant mental states. Possiamo avere consapevolezza degli stati mentali dominanti. And then see how we get involved, or even with more mindfulness, also not get identified that strong or that long. Possiamo vedere come ci facciamo coinvolgere, oppure sviluppare ancora più consapevolezza e vedere se riusciamo a non identificarci così tanto. So it's often little things that but they are still quite meaningful, where we can see that there may be more and more balance in life. Sono piccole cose, ma sono molto utili e possono portarci più equilibrio nella vita. And also using difficult situations and to find mindfulness. E poi possiamo usare situazioni difficili per trovare la consapevolezza. Like we are using the pain to concentrate and be mindful in the sitting, we can use difficult times or emotional situations to really also bring mindfulness in, with even the sense of urgency. Così come osserviamo i dolori nella meditazione seduta, quindi in una situazione difficile, lo stesso possiamo fare nella vita quotidiana quando ci sono situazioni emotive molto coinvolgenti, portare in queste la consapevolezza e to bring the mindfulness in the difficult emotional and urgency. Understand of urgency. Con un senso di urgenza. So one can be creative there. Si può essere creativi a riguardo. And also what I found helpful is that when coming from a retreat, using that energy and that clarity if there are any decisions to be made, skillful decisions, and to bring that clarity somehow on the ground. Portare anche l'energia e la chiarezza che ci viene dal ritiro nella vita quotidiana, specialmente se ci sono delle decisioni importanti da prendere, insomma, no? E usare queste qualità in questo campo. Also a very interesting area to work is to work with these five precepts. Un'area molto interessante in cui lavorare è quella che concerne i cinque precetti. And this just short because there's not that time. For example, Venerable Thich Nhat Hanh calls that five areas of mindfulness, which is a beautiful expression. In breve, insomma, volevo dire, ad esempio, che il Venerabile Thich Nhat Hanh usa questa espressione, no? Le chiama cinque aree, five areas? Five areas of mindfulness. Di consapevolezza. So that means more broader kind of mindfulness. E questo ha a che vedere con un tipo di consapevolezza più vasto. Where we also can learn quite a lot of about ourselves and our drives. Noi possiamo imparare molto riguardo noi stessi and drives. Yeah. Our intentions. Intentions, impulses. Impulses. I nostri impulsi. Maybe the last point is here we are reminded every day to practice. L'ultimo punto è che qui a noi viene ricordato tutti i giorni di praticare. We are reminded to be mindful just by seeing other meditators. E questo ci torna alla mente anche la consapevolezza semplicemente vedendo gli altri meditatori. But living in just in our society, usually no one reminds us to be mindful. Ma vivendo nella nostra società, di solito nessuno ci ricorda di essere consapevoli. So it is for lay people also, I think, quite important to have something like a sangha. Quindi è molto importante, specialmente per i laici, avere qualcosa come un sangha. Means a kind of spiritual friends. Degli amici spirituali. And so, of course, it can also be through a reading or so to keep connected and get some inspiration. Questo può avvenire naturalmente anche attraverso qualche buona lettura, nel rimanere collegati con il Dhamma e avere ispirazione. But many people say that this is a good support for them if they are, for example, going to some sitting group where people maybe once a week or something just simply sit together for an hour or something. Molte persone però riportano l'importanza di avere un collegamento con altri meditatori e trovarsi magari un'ora alla settimana, anche semplicemente sedersi assieme in silenzio. And this for some people can be tremendous support. E questo per alcune persone può essere un importantissimo sostegno. And it may not be so important exactly if there is no sitting group of this tradition, it can be also another one. E non è importante tanto il fatto che questo gruppo sia di una tradizione o di un'altra. And if there is none in your area, then you can found one. Se non ce n'è uno di questi gruppi nella vostra area, potete provare a fondarlo voi. So I actually founded two sitting groups, but they go on themselves now. So, and this is quite something good, so because one also is not feeling so isolated and has people to share with. Io l'ho fatto due volte, però questi gruppi adesso vanno avanti da soli. Is it good for you? No, it is good for the people because questa è una cosa molto molto valida per le persone perché hanno, diciamo, una situazione in cui possono condividere. No, it has nothing to do with me. This is going by itself. They just organize themselves. Si organizzano da soli, insomma, condividono la pratica senza la mia presenza. So maybe last point, but you are not beginner, so I don't even have to say much. Take time for transitions. L'ultima cosa da dire, anche se non siete principianti, comunque di prendervi un po' di tempo per questo cambiamento, per questa fase di transizione. Going from intensive retreat to big town can be quite a lot of heaviness of impressions on the mind. Passare da un centro di meditazione, da un ritiro a una grande città, può esserci un momento difficile, insomma, in cui ci sono forti, forti stimoli, impressioni che colpiscono la mente. And I hear also quite often from meditators that sometimes they tend to go to extremes, first being in retreat and then being free and going really to extremes. E ho sentito anche di persone che sono passate da un estremo all'altro, prima in ritiro e poi sentendosi improvvisamente liberi, diciamo, da questa situazione, buttarsi negli eccessi. Like going party or night and then completely a dei party o and then having complete headache or something. Complete headache. E questo sì, provoca senz'altro un forte mal di testa. So it may be good to have some time just for having some walks and then slowly. We also today start this talking, I think at 11. Quindi sarebbe bene, insomma, fare una cosa graduale, insomma, magari una passeggiata, poi potrete cominciare a parlare alle 11. And even when we start talking, have some clear comprehension of what you're doing and also when to stop. E anche quando comincerete a parlare, abbiate una chiara comprensione di quello che state facendo e quando è il momento di fermarvi. It was once the meditators from Rumbini on the 31st of December were going to India because we had to renew the visa and we had to stay one night until coming back in the next year to Nepal. E una volta a Lumbini, insieme agli altri meditatori, siamo dovuti andare in India. Lumbini è vicino al confine, quindi con l'India, e c'era questa necessità di andare per un giorno, per il 31 dicembre, per tornare poi col permesso nuovo per il nuovo anno. E nel stesso giorno. After 3 months of silence, we were talking so much that I had such a headache afterwards. E dopo 3 mesi di silenzio abbiamo parlato così tanto e io ho avuto un fortissimo mal di testa. And while I was going to bed, some others still were going to chat until. E quando sono andato a letto, gli altri continuavano ancora a parlare. And then one really can feel this can be too much at once. E uno può veramente sentire che questo diventa troppo se arriva tutto in una volta, insomma. Also it may not be that a good idea often to speak with others too much about one's experience. Yes. Because they don't understand anyway. E sarebbe anche meglio non parlare troppo delle proprie esperienze a un'altra persona perché questa persona magari non potrebbe non capire comunque. Which can be also quite tiring. Questo potrebbe essere anche molto stancante. I think that's just a few points that come to my mind. And then before I forget, I want to say that please with the interviews today, Fresi, who is this? Can you come at 9:45 to Venerable Vivekananda instead of 9:30? Questi sono alcuni punti che mi sono venuti in mente, brevi punti, però volevo anche ricordare il ruolo dei colloqui a Fresi, di venire alle 9:45 di venire alle 9:45 invece delle 9:30 al colloquio con Vivekananda. And you translate from 9:45. Okay. Should we give some questions? So we can give some space for any questions or whatever you want to ask or say now at the end. Ora c'è un po' di spazio per qualsiasi, per domande e risposte o qualsiasi cosa che vi vogliate. Maybe also something you want to ask or share about practicing daily life, maybe. Anche qualcosa che vogliate chiedere o condividere riguardo alla pratica nella vita quotidiana. I would like to ask a question about walking meditation. Vorrei fare una domanda riguardo alla meditazione camminata. Am I correct that when you want to observe the lifting movement of the foot, it is not as much about the work of the muscles of the leg, but of purely the movement of the foot itself. È giusto quando si fa la meditazione camminata nella fase di sollevare il piede, porre l'attenzione non tanto al lavoro dei muscoli ma quanto alle sensazioni del movimento stesso. Foot itself, just the foot, not del piede, the leg. Del piede, non della gamba. Del piede. Yeah, we give the attention to the foot and the sole of the foot, and see if one is not too much into the mechanics of the foot and the leg, but rather to be in contact with the pure sensation. Sì, è giusto portare l'attenzione al piede e alla pianta del piede e non tanto alla parte meccanica del movimento quanto alle pure sensazioni che si sentono, che si speriscono alla base del piede. Which I would say beginning meditators often in the beginning have a lot of this concepts of muscles and what muscles are moving, and but when one is just observing very close, moment by moment, the sensations, then these concepts gradually fall away. All'inizio i principianti hanno molti concetti riguardo a questi muscoli dei piedi che si muovono e quindi che provocano questo movimento, ma dopo un po' questi concetti se ne vanno, diciamo, vengono eliminati e si percepiscono solo le pure sensazioni. Yes, Frazy. Volevo fare una domanda in relazione alla saggezza. One question about wisdom. Il quinto atto dell'impegno. Perché non mi è molto chiaro. Non per il clear. Un esempio pratico di questa saggezza è se riconosco una formazione mentale negativa, quindi la riconosco e non agisco in base ad essa per un'azione che magari devo fare, cioè questa è saggezza. When I see a mental formation that is negative and also and I recognize and I don't act in consequence of this, is this wisdom? Not reacting is not yet wisdom. Wisdom is knowing, the nature, the qualities of the respective negative mental state. So how does it manifest in the mind? Riconoscere non è ancora proprio saggezza, la saggezza. La saggezza è più riconoscere la natura di questo stato mentale. Nature of the respective negative mental state. And how it manifests. Yes. E come si manifesta. And so, reactivity, observing an object without reactivity, the non-reactivity is your mental state of equanimity. La non-reattività, il fatto che tu non reagisci, è un fattore mentale, è il fattore mentale dell'equanimità che tu hai probabilmente sviluppato a quel punto. And so, recognizing a particular mental state, recognizing this is this is anger and this is not restlessness, that's your mental factor of perception. Il fatto di riconoscere invece lo stato mentale, questa è rabbia piuttosto che agitazione mentale. Questo è il fattore mentale che hai sviluppato della percezione. Right. And as mentioned already yesterday during the Dhamma talk, the manifestation of wisdom is non-confusion, non-bewilderment. So, in other words, clearly knowing the nature of the object, the characteristics of the mental state. La manifestazione della saggezza, come abbiamo detto ieri, è la non confusione, quindi riconoscere chiaramente la qualità dello stato mentale che si manifesta in quel momento. So let's say in the case of anger, when anger is predominant in the mind, then we can know that the mind is burning. And the mind is tormented, and there may be thoughts of persecuting, going after another person, retaliating, and so on. Ad esempio, con la rabbia, riconoscere lo stato mentale della rabbia e vedere come la mente ne affetta, quindi come c'è, sembra che la mente bruci. Burning, tormenting. È tormentata oppure c'è un senso di persecuzione riguardo a persecuzione against the other person, yes, right. Nei confronti dell'altra persona. Or retaliating wanting to hit back. Quello sì, ecco, il voler reagire, rispondere con un'azione a qualcosa che ci è stato fatto. And then, when dealing with the negative mental state, obviously also mindfulness will be involved, and mindfulness is just observing the respective object. E quindi avere a che fare con lo stato mentale naturalmente coinvolta la consapevolezza, and mindfulness is just observing. E sì, questa consapevolezza è il semplicemente osservare. For instance, recognizing coming to know that a mental mental factor, a particular mental factor, is unwholesome, that's already would be a form of wisdom. Riconoscere che uno stato mentale è non salutare, quello potrebbe essere una forma di saggezza. And also knowing how the particular mental state, negative mental state, is intensifying, de-intensifying, maybe changing to another mental state. This too would be an aspect of wisdom. E anche riconoscere se questo stato mentale aumenta di intensità o diminuisce di intensità o si trasforma in un altro stato mentale. Questo è un'altra manifestazione della saggezza. Yes, does this answer your question? Rispondere alla tua domanda? prima proprio non avevo capito, cioè, ma la natura, per esempio, significa allora vedere cioè, gli elementi che mi hanno scatenato estremamente. La natura e la rabbia, no? La natura della verità. Cioè, mi sorge questo stato d'animo negativo. Ha detto che la natura, bisogna riconoscere la natura dello stato mentale. E, cioè, la natura significa gli elementi che lo compongono? La manifestazione, non gli elementi che hanno dato origine. Mi asking please to see the nature of the mental state, not the element that give rise to. Yes, indeed. Sì, sì, questo. Non le cause, diciamo, che hanno dato origine, non analizzare le cause che hanno dato origine, ma vedere la manifestazione, come si manifesta, no? Lo stato mentale, quali sono le sue qualità, le sue caratteristiche. Maybe one more, one more point. If a particular negative mental state reoccurs again and again, and ordinary mindfulness is not helping, or with ordinary mindfulness, you're coming to know the nature of the mental state, but it's not certainly decreasing. In this case, you could, after a long time, maybe also check what the reason for this is, what is the cause for it. Se la consapevolezza ordinaria, diciamo, però non è sufficiente affermare lo svilupparsi dello stato mentale, questo stato mentale si ripresenta continuamente per lungo tempo, insomma, allora forse può essere, in quel caso può essere utile andare a vedere le cause. And the reference for this statement is from the Vitaka Santana Sutta. Il riferimento per questa affermazione lo troviamo nel Vitaka Santana Sutta. Yes, Sutta. Correct. Yes. Ad esempio, a livello fisico, no? Si manifestano magari più, non so, ad esempio, più dolore, quindi si va a vedere quello più determinante, cioè, si investiga su quello. Per quanto riguarda invece gli stati mentali, a volte si presentano, cioè ci sono degli stati mentali che sorgono mischiati e contemporaneamente, cioè voglio dire, a volte con la rabbia c'è, non so, c'è la rabbia, c'è il rancore, c'è la preoccupazione, ci sono diversi stati mentali che coesistono e quindi in quel caso si guardano tutti o si prende in esame lo stato mentale predominante. She says that sometimes the mental state, there are different mental states arising at the same time. When this happens in the body with the physical pain, for example, one look the predominant pain. In the mental state, maybe sometimes there is anger, but together there is rabbia. Può essere rabbia, può essere rancore, può essere preoccupazione, worry, può essere rancore, non so, amarezza, dispiacere, kind of bitterness, it seems to come all mixed together. So in this case, what one should do, which one should focus on the most predominant one. Anche qui devi focalizzarti su quello predominante. No, and so in the course of the observation, sure enough, that most predominant mental state may change, it may get weaker, and then another one comes into the foreground. Okay, then you observe the next one. Sì, allora anche qui nel corso dell'osservazione quello predominante può diventare, cambiare o diventare più debole, allora osservi quello predominante che sorge dopo. No, go by, really go by Mahasi Sayadaw's maxim of always labeling, observing and knowing the most predominant object. E continua a mantenere presente questa massima di Mahasi Sayadaw di sempre etichettare, osservare e conoscere l'oggetto predominante. Osservare, cioè etichettare, osservare, quindi le caratteristiche, e poi conoscere. Sì, negli stati mentali appunto non è semplicissimo, proprio perché spesso, come ripeto, si presentano molto connessi, molto, molto mischiati gli uni con gli altri, con molte sfaccettature che riguardano l'uno con l'altro. She said that in regard with the mental state is not easy because they are quite often mixed together and they are different aspects. Nonetheless, try to observe one at a time. E comunque cerca di osservarne uno alla volta, dice. And so, with practice, you get more and more skilled at knowing what is what in terms of mental states. E con la pratica che si diventa più abili nel riconoscere e nel riuscire a determinare chiaramente qual è, che cos'è, e a classificare, insomma, separarlo, insomma. And so, at first, indeed, there may be, let's say, a big mixture of different mental states, and you might not quite know how to label this properly, how to observe it properly. All'inizio potrebbero essere molto mescolati e non riuscirai magari a etichettarli, a definire bene qual è uno e qual è l'altro. No. So is the main thing, is it bitterness or is it a grudge or is it outright anger, etc. And as we keep observing, then gradually we might find the right word for it. And then we start labeling accordingly, and we try to observe in a non-reactive manner, and suddenly then we come to know the nature of that particular mental state, and eventually it will subside. All'inizio possono esserci appunto rabbia, rimorso, amarezza mescolati assieme, poi con la pratica appunto si impara a separarli sempre di più e a osservarli in un modo non reattivo, ed eventualmente con questa osservazione diminuiranno e spariranno. No, there may be many tiny things, like judgment would be one thing, or expectation would be another thing, or maybe an underlying underlying dissatisfaction, etc. It can be so many, refined states that not necessarily, are more complicated than just straightforward anger. Ci possono essere tante piccole cose sottostanti, come ad esempio il giudizio, l'insoddisfazione, unsatisfaction, judgment, l'aspettativa, insomma, no? che sono difficili da mettere a fuoco, molto, molto di più che non la semplice rabbia, insomma, ecco. No. But just work with the situation as best as you can, and then sooner or later the answer will come up. Ma cerca di lavorare al meglio che puoi con la situazione e prima o poi la risposta la troverai, insomma. No. Okay. No. I would like to continue. Indeed. daily life, if there is if there are so many impressions splashing up, yeah, so you cannot choose a single one. What, how to handle it? How to handle it? Just see it as a whole, a mixture from sounds, lights, gestures, speeches, or take one out. Nella vita quotidiana ci sono talmente tante impressioni che sorgono contemporaneamente. E come si fa allora? Cioè, bisogna semplicemente prenderle tutte assieme o cercare di tirarne fuori una per una? Can be both. Can be being with something that is quite predominant, but it also sometimes can be that is more wider kind of awareness. Possono essere entrambe le cose. A volte quando ce n'è una forte si può estrarre questa, oppure si può mantenere un tipo di consapevolezza più ampia, più aperta. When I'm driving a car, then there is rather something like which is more kind of choices awareness. I cannot be just with feeling my hands on the. Quando guido la macchina, ad esempio, è meglio avere una consapevolezza indistinta, cioè senza scelta, diciamo, piuttosto che osservare semplicemente il contatto delle mani col volante. So there are many sense impressions, but then it can also be interesting to still also again and again reconnect what is the impact on it on the mind and how is the mind reacting, so what is the mental state. Ci sono molte impressioni sensoriali, però è anche importante vedere che impatto hanno con la mente e come la mente reagisce, quindi lo stato mental state, lo stato mentale che si produce, insomma. So this is also why probably the transition from retreat to daily life it needs some time, because we a little bit more have us to open up to these many sense impressions, mm-hmm. and cannot be that focused only on one thing. E questo è anche perché ci vuole un po' di tempo nella transizione verso la vita quotidiana, perché bisogna aprirsi, diciamo, a tutte le impressioni sensoriali che ci arrivano in modo più aperto, insomma, no? Non dobbiamo cercare di stare con ogni singola impressione sensoriale. But there are enough opportunities when one has to wait or something, that one per purpose can return the attention to a more a smaller area, or just just to the body or the breathing or something. Però ci sono anche, si presentano delle opportunità, delle situazioni in cui si può restringere il campo. E ad esempio quando si è in attesa, ad esempio, allora si può focalizzarsi di più sulle sensazioni del corpo, ad esempio, o sul respiro. I want to ask you about the precept of not taking food after 12, solid food. I mean, based also on the experience of other meditator, and can be useful to implement in the normal life, or can be. Roberto chiedeva se. Stavo chiedendo se il precetto di non prendere il cibo solido dopo mezzogiorno, se poteva essere, diciamo, basato anche sull'esperienza di altri meditatori, poteva essere utile, fattibile, diciamo, nella vita ordinaria. I know some people who find it useful when they do it at certain times when it is socially possible. Like in tradition, there is this full moon days where Buddhist people in Asia wouldn't take 8 precepts. mi sa di situazioni in cui sociali, in cui le persone prendono gli autoprecetti, tipo appunto quando in Asia, quando c'è la luna piena, insomma, in questo caso appunto viene osservata questa consuetudine di non prendere cibo. So I know people who maybe once a week or something take 8 precepts. Quindi queste persone prendono gli 8 precetti una volta a settimana. So this can be some work to something one can do, but also I hear that people have who want to do this and to do it on an extreme basis. Can get quite isolated because we are not eating with other people in the evening and things like that. Però in altri contesti succede appunto che le persone che vogliono farlo in modo così estremo e poi si trovano isolate dal contesto in cui vivono, insomma. Or one can also say I do it in a more flexible manner, in the sense that one, whenever possible, is not eating after 12. Oppure di farlo in un modo più flessibile, no? Ogni volta che c'è la possibilità, non mangiare dopo le 12. But then when there is mother's birthday cake in the evening, and don't frustrate her because yeah, priest. Ma quando ad esempio è il compleanno di tua madre, cerca di non creare una situazione frustrante perché hai preso gli 8 precetti, insomma, e di non partecipare magari a una cena o cose di questo tipo. Plus, one more point to consider is here with daylight saving, so 12 o'clock, what counts is when the sun is in the zenith, so when the sun is at its highest point, and so then during daylight saving time can be much later than 12 o'clock. E quando c'è l'ora legale, mi sembra. The daylight saving. So like now it's 1. Yeah, like now it's 1:30. So there's much more time. Yes. C'è molto più tempo, insomma, a disposizione, quindi so it must be easier, you know. No, it's just to consider this. Sometimes people think the meal has to be taken before 12 o'clock. You know, 12 o'clock, whether this is ordinary time or daylight saving time, they don't consider. But actually, what something counts is whether the sun is in the zenith or not. That's the main point. Il punto principale da considerare è quando il sole è allo zenith. Sì, il momento che fa la, diciamo, la divisione, dopo quel punto non devi più prendere il cibo, non è proprio l'ora del mezzogiorno, perché per esempio l'ora legale può essere l'una o anche l'una e mezza, il punto diciamo centrale. È quello. Quindi è come sì, cioè, si considera quello. Maybe last question. It's not actually a question, but it's a question if this is a good moment to share something which has to do with gratefulness. È il momento per me di fare questa condivisione riguardo alla gratitudine. Thank you. It has to do with Hannes told us the other day about that girlfriend that once went to Italy for 1 week and came back crying. Came back? Crying, because it was so happy, so wonderful. È una storia che ha raccontato durante il Tarma Talk. Non c'era. Ha a che fare... Una ragazza che è venuta... Sì, era durante il Dharma Talk che ha parlato a Hannes di la sua ex, che praticamente era stata in Italia a Sorrento e che diciamo sulla strada di Sorrento aveva visto delle cose così belle che però non riusciva a prendere, a portare con lei, e questo gli aveva dato tristezza. Yesterday, just before 12, when I did my was in my walking meditation, suddenly I heard the tower of the clock in the village. La meditazione camminata, improvvisamente ho sentito il campanile che suonava alle 12. And then I suddenly realized the last 24 hours are going in this retreat. The last 24 hours are going in. This is the last time I go to dinner, to lunch, while in the retreat. E mi sono reso conto improvvisamente che erano le ultime 24 ore in cui stavo nel ritiro, sarei stato in ritiro. This dukkha. This is dukkha. E questo è dukkha. And from now on, every step I will do in this past 24 hours will be the last one. That's a way of saying. Da ora in avanti tutti i passi che farò in queste 24 ore saranno gli ultimi passi che farò in queste 24 ore. Every minute of the day is the last one, because there will not be a second one. After that, the retreat is over. Ogni minuto in questo periodo sarà l'ultimo minuto, perché il ritiro è finito, insomma. So that many moments of dukkha. Quindi c'erano molti momenti di dukkha. And as well as a deep feeling of gratefulness. Insieme a un grande sentimento di gratitudine. That I could have this experience. Perché ho potuto avere questa esperienza. With every step. During 24 hours. A ogni passo durante queste 24 ore. Thanks to this wonderful teachings. Grazie a questi meravigliosi insegnamenti. And thanks to Gianni and Sandra. Grazie a Gianni e Sandra. Who brought, organized the things so that these wonderful teachings could come to this wonderful country, Italy. E che hanno organizzato in modo che questi meravigliosi insegnamenti avvenissero in questo paese meraviglioso. With such a long tradition of spirituality. Che ha una lunga tradizione e una lunga spiritualità. But just in Italy there is for me this opportunity to come in contact with this great instruction. Che proprio in Italia, appunto, c'è stata per me questa opportunità di venire in contatto con questa tradizione, con questa spiritualità. That made me very happy. Questo mi ha reso molto felice. Thank you all. Grazie a tutti. Okay, and then maybe to come to an end, take up this certain opportunity also to express certain or say some words of gratitude towards Gianni and Sandra for having invited Beata, Hannes, and myself, and for having organized this retreat. And also much gratitude goes to all of you, all of the meditators who've come from faraway places, from nearby places, and practice to your best ability. Anche venerabile Vivekananda esprime gratitudine per Gianni e per Sandra per aver invitato me stesso e Hannes e Beate, aver dato l'opportunità di venire a insegnare a questo ritiro, e anche gratitudine a tutti voi che siete venuti da vicino, da lontano e che siete impegnati al meglio in questo ritiro. And Sadhana also gratitude goes to Janice and their parents for setting up this place, otherwise we wouldn't be here. La gratitudine va anche ai genitori di Gianni per aver costruito, dato vita a questo, questo luogo, altrimenti non ci sarebbe insomma questa opportunità. Originally it was a hotel and then Gianni Gianni turned it into a meditation center. E questo originariamente era un albergo e è stato trasformato da Gianni in un centro di meditazione. And then also much gratitude goes towards well, life around here, nature around here, and so it's very beautiful. It's a rich experience to be here in this magnificent aesthetic, scenic setting. E anche molta gratitudine alla la vita, la natura qui attorno, insomma, per come si manifesta, e è un'esperienza molto, molto bella poter stare in questo contesto, insomma. And there are not that many places that are so beautiful and quiet at the same time. Ci sono molti posti che sono così belli e tranquilli nello stesso tempo. Okay. So I want to add one point of gratitude, especially to Gianni and Sandra. What I really value very much is that they very much support this tradition of Vipassana meditation, and Mahansa Sadhu tradition of Vipassana meditation. So maybe with some other kind of courses they would be able to fill the house with even much more meditators. They are not operating on a completely commercial basis, but there is a lot of idealism behind it, and I value this very much. Un punto ancora che vorrei soffermarmi di gratitudine riguardo a Gianni e Sandra per il supporto che danno a questo tipo di ritiri in questa tradizione, insomma, di Mahansa Sadhu. In altri modi, forse con altri corsi, altri ritiri potrebbero riempire la casa e quindi operare in una maniera più legata l'interesse, diciamo, puramente economico. E mentre in questo modo, diciamo, l'apprezzamento va per questo impegno più idealistico. Possiamo terminare con il canto di metta.